chi ha sete, la fame che uccide, con falce che miete le giovani spighe. La guerra ti ha reso già sordo al perdono, in pietra ha scolpito il tuo volto di uomo, ma un giorno hai sentito che di là dal mare c'è un prato fiorito, un mondo ideale. Ti sei messo in tasca tre chicchi di grano e poi sei partito incontro al destino. Via, via, la nave ora ti porta via. Via, via, più bianca del bianco è la scia. Più bianca del bianco è la scia. Milioni di stelle ti danno coraggio, son come sorelle, compagne di viaggio. Hai dato alle onde i tuoi chicchi di grano che tocchi le sponde di un mondo lontano, laddove ogni uomo è uomo davvero, laddove il perdono è un vento leggero che non piega i fiori ma batte frontiere, che anima i cuori e non scuote bandiere. E più leggera ora va. Via, via, leggera la nave va via. Via, via, e quasi non lascia la scia. Si accende il cielo ad oriente, dilagan le ombre fin dentro di te, e vedi quei corpi sull'acqua riversi, quei giovani volti somigliano a te. L'ultima stella ora ha perso colore, si è spenta la fiamma in fondo al tuo cuore, e i chicchi di grano che hai dato alle onde non germoglieranno su terre feconde. Il primo è approdato a un grande deserto, tra i gorghi del mare il secondo si è perso, il terzo è finito in bocca a un gabbiano, e mai darà vita a una spiga di grano. Eppure ancora se ne va. Strano colore alla scia, che strano colore.